Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi tre capitoli di massima. Beh, le semifinali di Coppa, evidentemente, il bilancio di questa, di queste due partite andata. Un test scientifico molto interessante per studiare gli infortuni nel calcio, una cosa nuova di cui ci parlerà il dottor Piero Volpi, e l'intervento di Lippi al congresso della stampa sportiva italiana ed internazionale. Partirei da qui ascoltando questo frammento grazie a Sky. Io non ritornerò alla Juventus né come allenatore né come direttore tecnico, sono stato chiaro? No, io sono CT della Nazionale, penso alla Nazionale e penso solo ed esclusivamente a quello. Di Cannavaro l'ho saputo perché mi ha telefonato lui, l'ha già detto due volte anche lui, ma non ci crede nessuno, si va avanti col discorso che Lippi ha voluto Cannavaro. Mi ha telefonato lui per dirmi che andava alla Juventus e gli ho detto bello, sono contento, mi fa piacere che tu vada, sono contento per te e sono contento anche per me come CT della Nazionale, ma me l'ha detto lui, non è stato un mio suggerimento. Fin qui Marcello Lippi per rimettere le cose a posto, perlomeno dal suo punto di vista. Ne parleremo insieme più tardi anche di altre notizie, per esempio del fatto, adesso la trovo subito, di un'altra intervista, questa rilasciata da Buffon all'Equipe. L'Equipe è il quotidiano sportivo francese, l'unico a differenza che da noi. Buffon si è un po' sfogato e ha detto: ormai da 6 mesi mi criticano come se non potessi più permettermi di prendere un gol. Sì, il mio problema è diventato questo, non ho più diritto di subire un gol. Ha poi difeso anche Ranieri, mi chiedono spesso di fare un paragone con Capello e Lippi, ma Ranieri, io dico, non ha mai avuto a disposizione la squadra che avevano loro. Questa è l'opinione di Buffon. Ripeto, mi sembrano due interviste che varrà la pena di riprendere più tardi con i vostri interventi. Adesso siamo già collegati con Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. E neanche la dirigenza, vorrei aggiungere, avendo letto l'intervista. Buongiorno Gigi. E nemmeno la dirigenza? Sì, no, certo. Ranieri ha avuto una dirigenza diversa rispetto ai suoi predecessori. Certo, oltre che una squadra diversa. Non c'è dubbio. Il punto su queste due semifinali. Beh, intanto avere i gol rispetto a come ci avevano abituati, ottavi e quarti, per merito anche dei portieri, soprattutto di Almunia, per demerito degli attaccanti. Facciamo un po' un riassuntino. Ma Gigi, quando in campo vanno Drogba, vanno Messi, vanno Cristiano Ronaldo, vanno Adebayor e poi l'unico gol in 180 minuti lo segna Jono Shea, che non è il più dotato tecnicamente della compagnia, c'è evidentemente qualcosa che non va, certamente un po' di delusione c'è stata dal punto di vista numerico. Io credo che quello che non è mancato siano state comunque le emozioni, cioè la sensazione che potesse sempre accadere qualcosa, anche sì, quando non è accaduto, e questo credo faccia sempre di uno spettacolo, specie se guardato senza le lenti deformanti del tifo, un qualcosa di gradevole. E quindi sono certo che non siano state da catalogare come deludenti queste due andate di semifinale, a maggior ragione perché ci regalano due partite di ritorno apertissime. Quindi io credo che il contenuto complessivo non sia particolarmente negativo. Poi certo c'è il fatto che Cech e Almunia hanno avuto una serata, Cech come i suoi vecchi tempi, Almunia un po' sorprendente visto che non è un portiere così sicuro, che hanno impedito a Barcellona e Manchester United di avere un vantaggio che però invece il campo aveva o avrebbe legittimato. Il punto è abbastanza facile perché il Manchester United ha un risultato certamente favorevole e non facilmente ribaltabile dall'Arsenal, che però io penso proprio sarà molto diverso da quello che abbiamo intravisto ieri sera, nel senso che l'Arsenal prenderà molto più coraggio e se riuscirà ad alzare di un bel po' i ritmi come l'Arsenal sa fare, il Manchester United potrebbe soffrire. La vera partita intrigante è quella di Stamford Bridge, perché certamente non vedremo un Chelsea speculare al Barcellona nella partita di ritorno, certamente rivedremo un Chelsea molto attento, un po' più coraggioso probabilmente, sarà una partita ancora una volta molto molto tattica. Da lì veramente può succedere chiunque, qualsiasi cosa, perché essendo finita 0 la gara d'andata basterà un gol per far saltare completamente gli equilibri e lì poi forse potremmo vedere anche una gara altamente spettacolare. Questa mi sembra una buona previsione, perché in effetti è altamente improbabile che anche il ritorno risulti da parte del Chelsea soprattutto ingessato e diciamo pure anche rinunciatario per lunghi tratti come all'andata. C'è un punto debole che riguarda la finale più suggestiva, e cioè Manchester a questo punto favorito, Barcellona a questo punto forse leggermente sfavorito, però tutto ancora da eliminare, che è l'assenza da una parte di Ferdinand per infortunio e dall'altra di Pujol per squalifica. Ecco, credo che dovendo, insomma, tutte e due comunque impostare una gara anche difensiva, anche, questo possa essere un tallone d'Achille non da poco per entrambe. No, certamente lo è, perché diciamo che un giocatore come Vidic può fisicamente contrastare Adebayor, ma la grande forza del muro è dato dalla coppia. Vidic e Rio Ferdinand davvero si completano, sono una coppia di centrali fantastica. Adebayor l'ha vista abbastanza poco nella prima partita, e certamente lo troveremo in una condizione diversa nella seconda. Per quanto riguarda l'assenza di Pujol, c'è un dato di fatto che Guardiola aveva rinunciato a lui anche in partenza alla gara d'andata, poi è stato costretto a schierarlo. Io credo che debba essere combinata anche questa, cioè l'assenza del capitano del Barcellona va accoppiata all'assenza di Marquez, perché Marquez è fuori per tutta la stagione a questo punto. Questo è un vero e grande danno, perché contro Drogba Guardiola non avrà la coppia di centrali che lui schiera abitualmente, quindi questo potrebbe costringerlo a schierare Yaya Touré centrale. Yaya Touré è un grande giocatore, può fare il centrale come lo può fare Sien, che l'ha fatto benissimo anche in passato col Chelsea, però se lo fanno bene possono far bene il difensore centrale, ma li perdi a centrocampo, e questi sono giocatori che a centrocampo hanno un'importanza a volte vitale. Quindi onestamente delle due credo che, ripeto, accoppiata all'assenza di Marquez sia quella in fronte Barcellona quella più grave, fermo restando che Rio Ferdinand è un grandissimo giocatore. Certo, anche di questo parleremo insieme tra poco all'800 24 00 24. Tu sei partito enunciando i grandi che insomma non hanno timbrato, se non altro il cartellino del gol, perché è l'unico venuto da Oshé in 180 minuti. Tra l'altro, ecco, questo mi ha colpito, tra l'altro anche sbagliando, perché è chiaro che Ronaldo è stato sfortunato ieri sera quando ha preso quella traversa incredibile, però io ho visto sbagliare un gol non impossibile a Drogba, ne ho visto sbagliare due molto facili ieri sera, per esempio uno a Tevez e soprattutto a Ronaldo di testa, ne ho visto sbagliare uno a Bojan o a Bojan, che dir si voglia, all'ultimo istante. Quindi, quello clamoroso. Ecco, quello clamoroso. Sicché, sì, è vero che c'è stato catenaccio pure semplice da parte del Chelsea, c'è stato un po' di rinuncia da parte dell'Arsenal, queste due squadre hanno avuto tutte e due il portiere migliore in campo di gran lunga, è vero, però c'è stata anche poca precisione da parte di queste stelle. No, questo è verissimo, anche perché se le partite fossero finite con 2-3 gol complessivi non ci sarebbe stato nulla da eccepire, perché cioè un 4-4 può arrivare anche da 8 tiri in porta, e insomma 7-8 ce ne sono stati sommandoli per entrambe le squadre in tutte e due le partite. Quindi i portieri certamente hanno fatto delle ottime parate, credo che almeno in 3-4 occasioni ci sia un concorso da parte degli attaccanti, perché hai detto giustamente tu, il colpo di testa di Ronaldo era quasi un calcio di rigore, perché Ronaldo ha una potenza pazzesca, lì alla fine ha colpito di testa, ha colpito forte, ma ha colpito veramente addosso ad Almunia ha avuto il merito di essere lì e di essere abbastanza robusto e di quasi farsi colpire. Anche Tevez nel primo tempo ha avuto una grande occasione da gol, però metti che quella sia stato anche bravo il portiere, sì, ma quella di Cristiano Ronaldo e quella di Bojan è pazzesca. Io penso che lì a Bojan siano un po' tremate le gambe, perché proprio non ha saltato, cioè ha saltato male, ha saltato quasi ingobbito su quella palla, quindi gli è mancata davvero un po' d'esperienza, e viva Dio, perché è un ragazzino, è un bambino, per cui insomma è normale non avere la freddezza dei grandi. Beh, è verissimo, diciamo che tra tutti secondo me è mancato un po' Leo Messi, ecco, è quello che era lì che volevo arrivare. Sì, è andato un po' sotto il par, nel senso sotto il suo standard. Messi ha fatto una grande azione nel primo tempo quando ha preso l'ammonizione di Bosingua, e io mi aspettavo che lì lui potesse incendiarsi, poi in realtà è stato un pochino sulle sue, è stato un po' vago, a volte anche come dire, un po' lezioso, cosa che non solitamente non fa, quindi mi aspetto una grande gara di ritorno, certamente dei grandissimi è quello che ha preso il voto più basso, cioè, non è sufficiente quello che lui ha fatto nella prima partita. No, certamente no. Due riflessioni ancora, una è una riflessione e una proiezione. La riflessione è che è una linea di tendenza comunque, anche se non costante, quella che i gironi eliminatori della Champions League lasciamoli perdere se parliamo di qualità. Poi ci sono in genere degli ottavi e dei quarti splendidi, molto emozionanti, molto, perché c'è ancora libertà e freschezza mentale e fisica da parte di tutti. Le semifinali in genere sono un po' così, cioè sono molto più tirate, molto più prudenti, più caute e più avare in genere. E le finali sono orribili, aggiungo. Spesso accade questo, ma guarda, succede anche nel tennis, di avere dei grandi quarti di finale, delle discrete semifinali e poi magari di avere una finale un po' col braccino. Ieri sera ho avuto la fortuna di poter dialogare con Evra, e insomma Evra diceva una cosa che deve far pensare, cioè lui ha parlato di una leggerezza mentale che le squadre inglesi, le grandi squadre internazionali hanno al confronto delle italiane. Io mi sono permesso di dirgli che il Chelsea allora è una squadra italiana, perché il Chelsea visto a Barcellona è una squadra figlia di un'antica concezione, di una concezione del calcio italiano, no? Anche esportata all'estero. Detto questo, è vero che molte squadre, ripeto, soprattutto Arsenal e Chelsea, hanno dato l'impressione di essere un po' col freno a mano tirato, però io penso che ad esempio l'Arsenal abbia pagato poi il fatto di avere giocatori non ancora al punto giusto di maturazione per queste competizioni davanti a un pubblico come quello di Old Trafford e in uno stadio come quello di Old Trafford vestito da Champions League e non da campionato. Cioè, credo che qualche giovane dell'Arsenal ieri l'abbia un po' sentita nelle gambe questa. Abbia sofferto questo. Però è vero, insomma, c'è certamente, soprattutto le gare di andata sono molto pericolose dal punto di vista psicologico, perché poi rischi di non avere più la possibilità di recuperare. Sono abbastanza convinto che invece in quelle di ritorno, giocandosela senza domani, le squadre giocheranno un po' più mentalmente libere e potremo vedere uno spettacolo certamente migliore. La stampa inglese ha esaltato la prestazione del Chelsea. Cosa avrebbe scritto se fosse stata una squadra italiana? Domanda Davide. Avrebbe scritto che era un catenaccio di cui vergognarsi, avrebbero rispolverato gli anni 60, eccetera, eccetera. Ma insomma, così va il mondo, ed evidentemente non soltanto da noi. La chiusura è dedicata al Barcellona e alla proiezione non tanto sul ritorno, ne abbiamo già parlato, quanto su sabato con il Real. Io credo che al Bernabeu abbiano preso ulteriore fiducia dopo aver visto che il Barcellona ha giocato una signora partita, rimane una grande squadra, ma non è più, o comunque non è stata l'altra sera in un'occasione che contava il Barcellona che temevano. Ora, Messi questa mattina ha detto che avrebbe preferito, dovendo scegliere o potendo scegliere, vincere contro il Chelsea piuttosto che vincere contro il Real Madrid, ed è anche abbastanza facile perché con Real Madrid loro possono anche pareggiare, nel senso che se rimangono a 4 punti il campionato è finito. Sì. Real Madrid ha perso anche Guti, per cui anche questa assenza è un'assenza pesante per Juan de Ramos, quindi veramente il Real Madrid deve fare una grande impresa, però è vero perché intanto il Barcellona deve minimamente dosare le forze, quantomeno deve pensare anche alle altre partite, deve pensare anche alla sfida col Chelsea. Se il Barcellona avesse vinto 4-0 contro il Chelsea, molto probabilmente avrebbe potuto anche considerare il ritorno una formalità, invece assolutamente no. Quindi il Barcellona non cambierà la sua idea di gioco, il Barcellona andrà a Madrid a fare la sua partita, a cercare di vincere, e se poi pareggerà o perderà va bene, però il Real sa perfettamente che si troverà contro una squadra che vuole andare a chiudere definitivamente i conti. Lo può fare a parer mio, perché il Barcellona è comunque più forte del Real Madrid, però insomma stiamo parlando di una squadra che avrà uno stadio non bollente di più e che metterà le corde anche psicologicamente il Barcellona. Io veramente ho una grande, grande, grande attesa per questa partita, che è sabato alle 8, sabato alle 20, e credo che sia il meglio possibile. Non è Champions League, ma è come se lo fosse. Sì, è un appuntamento imperdibile per i buon gustai del pallone. Sì, sì. Grazie per avercelo ricordato. Buona giornata a tutti, Gigi, grazie. Ci diceva prima Fabio Tavelli di Evra, di questo esterno sinistro del Manchester United, che è insomma campione d'Europa, campione del mondo, che sta vincendo, insomma, che sta facendo il protagonista al di là di quello che vince in una squadra come il Manchester United, e che ha avuto esperienze invece assai mediocri nel calcio di casa nostra, a Marsala, a Monza. Sentiamo un frammento di questa intervista che prima Fabio Tavelli citava a Sky ieri sera. No, non sono soddisfatto perché potevi fare più di un gol. Dopo io sono soddisfatto del spirito che abbiamo messo, la grinta, c'era tutto stasera, però vincere solo 1-0 e avere almeno 5 occasioni non può essere soddisfatto. Beh, l'italiano di Evra l'avevamo già sentito in un altro paio di occasioni, ma è un italiano praticamente impeccabile. Sentiamo quello di Hassan, che ha chiamato da Verona. Buongiorno Hassan. Buongiorno, grazie di avermi richiamato. Sono molto felice di parlare sul suo programma. Mi consente una cosa, ma la sigla di Radio Tempo Sport fa l'effetto del rimbalzo della palla o no? O sbaglio? Sì, certo, certo. Grazie, perché tante volte volevo dire questo, perché veramente si è scelta proprio apposta. Quindi l'italiano lo conosce e l'orecchio ce l'ha che funziona. Dica. No, volevo dire il discorso della partita di Barcellona e Chelsea, no? Sì. Secondo me è il Barcellona che non ha giocato bene, ma il Chelsea ha giocato, come ha detto lei, anche il suo ospite di Sky, ha giocato il calcio catenaccio, perché doveva essere anche espulso Balla, perché ne ha combinate tanto. Ha sbagliato perché le due occasioni che ha avuto il Chelsea, perché ha sbagliato dare la palla indietro al giocatore, il difensore. Ma secondo me, se il Barcellona gioca come ha giocato anche nel campionato, anche tutte le eliminazioni della Champions League, secondo me non avrà problemi a passare in finale, perché gioca un bel calcio. E lo sbaglio che ha fatto Guardiola, ha fatto uscire due Henry e Eto'o, e ha fatto entrare due giocatori bassi, che se fosse Eto'o o Henry alla palla che è capitata Bojan, secondo me segnava con la testa. Hassan, può darsi, ma chi può dirlo? Non, la certezza in questi casi non c'è mai. E poi, sinceramente, sì, forse Henry qualcosa, ma Eto'o non ha combinato una grande azione personale, ma non ha combinato moltissimo l'altra sera. Del Barça alla sua altezza c'era solo Iniesta, a parer mio, l'altra sera, ex Xavi, semmai in cucitura, ma gli attaccanti non mi sono sembrati loro. Siamo collegati col dottor Piero Volpi. Ciao Piero. Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Caro dottore, ho visto con molta curiosità su un inserto salute del Corriere della Sera di domenica un'inchiesta sulla fragilità dei calciatori e poi nella pagina accanto un tuo intervento. Mi piacerebbe approfondire tutti e due questi argomenti, perché soprattutto la curiosità nasce da questo nuovo test che viene fatto sul polso per controllare la crescita, l'ossificazione, eccetera. Di cosa si tratta? Innanzitutto il tema era centrato sui settori giovanili, la fragilità dei calciatori, particolarmente diciamo gli adolescenti, i giovani, che è un tema estremamente importante, anche di preoccupazione. Pensiamo a tutti i genitori che mandano i propri figli nelle scuole calcio a giocare. Recentemente scatenò una grande polemica nel nord Europa all'uso del caschetto, che in Danimarca venne quasi obbligato nei ragazzini dai 12-13 anni per paura di avere dei traumi cranici, tanto per fare un esempio. Quindi questo tema è un tema che si ripresenta, e molti centri e molti medici che si dedicano alla prevenzione dello sport cercano di studiare. Questo articolo nasce proprio da questo, in quanto i medici del Manchester hanno testato questi giocatori, questo gruppo di giocatori con una radiografia al polso, per capire se effettivamente questi atleti giocavano con una maturità, con un'età anagrafica diversa rispetto alla maturità biologica. Cioè il polso come parametro? Il polso come una radiografia del polso, ma questo fa parte, se per chi ha studiato medicina è lì il problema. Gli esami di pediatria, eccetera, è uno dei test che testimonia la crescita di un ragazzo, cioè quando tu vuoi stabilire se tuo figlio ha una maturità ossea normale, fra i vari, non è l'unico, fra i vari test è quello di fargli una radiografia per vedere se le famose cartilagini di coniugazione, cioè quelle cartilagini che sviluppano la crescita dell'osso, si sono saldate o meno, e questo testimonia la fine della cosiddetta crescita, no? Ecco, questo è un esame, ma non è l'unico, poi ci sono test ematici, ormonali e quant'altro. Loro hanno praticamente da questo lavoro asserito che molti dei giocatori che hanno controllato, quindi si parla di uno studio osservazionale, se non ricordo male, di circa 300 giocatori, sì. Giocavano con una maturità scheletrica non, diciamo, alla pari di quella che era la maturità dell'età anagrafica, e quindi con maggiori rischi, ecco, questo in sostanza. Partendo da 200, sto vedendo il dato, da 292 allievi di questa scuola calcio del Manchester, 9-16 anni, che avevano avuto infortuni ben precisi. Ora, questo servizio e questo tuo intervento di conseguenza è partito dal Manchester United e da un'iniziativa loro. Mi fa piacere ricordare, e tocca a me perché tu non lo faresti mai per ragioni di deontologia, che questo studio di settore giovanile di club, di un club all'avanguardia oggi nel mondo come il Manchester, era stato preceduto anni fa da un analogo studio nel settore giovanile del club in cui tu allora eri il medico sociale, o sbaglio? No, assolutamente, cioè questo è uno studio che, ripeto, focalizza questo aspetto, però ci sono, diciamo, in letteratura scientifica, dove ovviamente devi pubblicare dei lavori con dati molto seri, cioè non è semplicemente un articolo così divulgativo, noi avevamo pubblicato un lavoro relativo all'esperienza di quando io sono stato medico dell'Inter, responsabile, non dimentichiamoci che oggi il responsabile di una squadra di professionisti è anche il responsabile non solo della prima squadra, ma di tutto, il settore medico fino alla squadra più piccola dei pulcini, diciamo. E abbiamo pubblicato un lavoro su 4 anni osservazionali, quindi non su uno, nel 2003, quindi ben 6 anni fa, in cui i dati erano ovviamente tendenzialmente simili a quelli del Manchester, partendo da dati però di partenza e di osservazione diversa, cioè che i giocatori avevano delle alte incidenze traumatiche, esattamente come nel calcio professionistico, che dopo i 16 anni avevano gli stessi traumi dell'adulto, quindi i ragazzi della primavera hanno praticamente gli stessi traumi della prima squadra, mentre i ragazzi sotto i 16 anni avevano altri tipi di traumi legati all'adolescenza, alla crescita, esattamente quello che vogliono dimostrare, hanno voluto dimostrare gli amici colleghi del Manchester. Qui tu sei stato molto carino nei miei confronti, ma un pochettino di orgoglio ce lo metto io, dicendo che in questo caso penso che abbiamo fatto far bella, in particolare io, ma abbia fatto far bella figura in generale gli italiani all'Inter, perché non è stata sconfitta sul campo, ma penso che almeno uno studio precedente a questo è stato fatto, e quindi abbiamo pareggiato i conti, ecco. Certo, perché la ricerca, la prevenzione anche in questa materia sono fondamentali. Nel servizio invece che appare nell'altra pagina, dove tu come chirurgo parli, ti esibisci, diciamo pure, sulle nuove raffinatezze della chirurgia per cartilagini e tendini e altre cose ancora che verranno ricostruite in laboratorio, io non ti chiedo tanto un intervento tecnico, oppure in parte sì, ma insomma ovviamente un po' divulgativo, perché non siamo, se no non siamo in grado di apprezzare queste finezze, ma partendo da un dato che è questo, mi pare che ormai ci siamo, non io e nemmeno te, ma ci siamo un po' arresi di fronte al fatto che gli infortuni dei grandi, adesso lasciamo stare i ragazzi, è sempre più difficile prevenirli, è sempre più difficile prevenirne la gravità su tendini, cartilagini che si distruggono molto, ma molto più di una volta, e allora cosa succede? Che deve raffinarsi la chirurgia. Assolutamente, diciamo che il tema è centrato, non bisogna mai abbassare la guardia sulla prevenzione, bisognerebbe evitare anche dall'utilizzo delle scarpe ai terreni, a tutto quello che circonda il mondo dello sport, la preparazione, l'affaticamento, l'allenamento, i calendari, vedi che mettiamo dentro tantissime cose, bisogna migliorare la prevenzione. Però è vero quello che tu stai dicendo, che lo sport è spinto talmente ai massimi livelli, abbiamo giocatori, atleti, vale anche per il nuoto, il basket e quant'altro, così forti fisicamente, che il rischio degli infortuni, purtroppo, penso che, come dici tu, sia difficile fino a arrivare a prevenirlo in maniera massima. Allora Ecco che per esempio ci si dedica con grandissima raffinatezza alla riparazione dei tessuti, un tema di grandissima attualità, ma non solo nello sport, in questo momento nella scienza medica, è quello delle biotecnologie, cioè riuscire a costruire un pezzo di ricambio di tessuto o far guarire un tessuto originale il più vicino possibile a quello che era l'anatomia del tessuto stesso. E da qui l'utilizzo non solo di materiali, di scaffold, come si dice, cioè di impalcature che possono sostenere questi tessuti, ma di utilizzo di cellule, di fattori di crescita o di cellule mesenchimali, spinali. Se ne parla tanto in questi giorni, anche per i problemi bioetici che sono alle spalle di questo argomento. E quindi da qui dire un domani, perché no, un atleta che si rompe un menisco o un legamento crociato o la cartilagine non possa avere un ricambio sostitutivo analogo dal suo stesso corpo e formato attraverso una cellula del suo corpo totipotente come può essere la staminale. Ecco, questo è in sintesi quello che vuole dire questo articolo, e in più ti dico che ci sono già delle applicazioni cliniche, quindi non stiamo parlando di scienza di laboratorio. Lì si parla già di alcuni centri, uno è il mio, che ha già fatto delle applicazioni sui tendini, per esempio sulla cartilagine. Questa è una proiezione nel futuro, cioè il futuro che è già nel presente. È un futuro che è già presente, anche se in maniera segmentaria, con degli studi controllati, perché ovviamente si deve effettivamente essere molto molto selettivi, molto severi e devo dire anche molto seri nel pubblicare, poi dopo nel valutare, pubblicare e espandere questi dati. Certo. Poi dovrebbero diventare da qui a 10, 15, 20 anni, diciamo, la pratica corrente per tutti. Intanto alcuni cangiatori, finisce questo, così si conclude questo servizio apparso, ripeto, sull'inserto salute del Corriere di domenica, intanto alcuni cangiatori inglesi hanno già messo in banca il cordone ombelicale del figlio come scorta di cellule staminali per riparare i loro legamenti futuri. E questa mi sembra davvero, qui siamo nel futuro, ma ripeto, e ripeti anche tu, siamo in una tecnologia chirurgica proprio perché nel cordone, il cordone ombelicale è ricco di queste cellule, chiamiamole mesenchimali staminali totipotenti, per cui da lì si può far ricrescere il tessuto. Sarebbe, siccome il buon Dio non ci ha fornito dei pezzi di ricambio come le automobili, certo, in questo caso il percorso, la strada è quella da una cellula a costruirsi poi il pezzo di ricambio che va a sostituire purtroppo quel segmento che giocando a pallone o sciando o quant'altro uno si va a rompere. È chiaro che questo, l'applicazione sportiva poi può essere estesa all'applicazione del mondo del lavoro, dell'infortunistica, perché questo poi ne usufruirà solo lo sportivo, ma anche la persona normale. Certo. Tu sai benissimo che la Ferrari è l'avanguardia, per esempio, di quella Ferrari, ovvio, per dire, una casa automobilistica, di quello che è la scienza automobilistica poi sui settori normali di la produzione. Scienza parte dai motori umani più sollecitati per poi arrivare ai motori umani, che invece sono chiamati solo a prestazioni normali. Il tempo è passato, io ringrazio il dottor Piero Volpi. Ciao Piero. Ciao Gigi, buona giornata. Grazie. A tutti. A tempo di sport. Un minimo di polemica c'era già stato tra i due presidenti a Milano lunedì con una punzecchiatura di Berlusconi a cui ha risposto Moratti a proposito di rimonte, di rigori, di cose di quel genere. Adesso hanno rilanciato ieri, direi con una discreta sobrietà, Ambrosini, che la cui frase era: mi piace pensare che Mourinho fra qualche settimana possa pentirsi di quella famosa frase, zero titoli, no? Riparliamo tra 15-20 giorni, ma insomma, forse non felicissima da un punto di vista scaramantico, ma ci poteva stare. Mourinho ovviamente ha risposto per le rime, e stavolta mi pare che ci possa anche stare. Se non sbaglio, e se il Milan arriva alla fine del campionato con un titolo, chiederò scusa, ma io ricordo molto bene Ambrosini che insultava 10 milioni di interisti, sono passati tanti anni, non l'ho mai visto chiedere scusa. Si riferisce al, tanti anni no, sono due, si riferisce a quella festa Champions del 2007 in cui Ambrosini sfilò ed esibì uno striscione pesantemente offensivo che gli costò anche un deferimento disciplinare, ma che in ogni caso offese oggettivamente il cattivo gusto, il buon gusto assai più del resto. E quindi Mourinho battagliero, sto vedendo le agenzie appena uscite, ma poi ha continuato dicendo: il Milan può ancora stabilire il record di rigori a favore nell'arco di un campionato. Quanti rigori hanno avuto finora? 12, il record è 18, no, allora è troppo, però uno per partita, arriverebbero 17, potrebbero, se non altro anche lì, arrivare vicini ad un primato, insomma, comunque, provocazioni di finali più o meno normali di finale di stagione. Ha chiamato Marcello da Milano, buongiorno. Io Garanzini, sempre un piacere sentirla. Grazie. Senta, lei sa che io sono un tifoso milanista. Beh, e credo che il ciclo di Ancelotti francamente sia andato alla fine nonostante come finirà il campionato, e credo purtroppo che ci siano poche speranze a poche giornate dalla fine. Leggo due nomi che potrebbero sostituirlo che mi fa enormemente piacere: l'allenatore del Cagliari Allegri, oggi con mia sorpresa l'allenatore del Palermo Ballardini. Volevo da lei gentilmente un suo parere. Le dico che quest'anno ho seguito attentamente il Cagliari, secondo me è la squadra che gioca il miglior calcio d'Italia con dei giocatori obiettivamente abbastanza modesti, e mi piacerebbe molto vedere questo allenatore sulla panchina del Milan. Grazie Garanzini, buona grazie, giornata. Grazie a lei. È una delle due ipotesi, no, per la verità le ipotesi sono tre. La prima è che resti Ancelotti, anche se la ritengo la meno probabile, anche dopo aver ascoltato le parole di Berlusconi pronunciate credo proprio ieri stesso. Anzi, dato che noi ne abbiamo un breve frammento di questo intervento di ieri, che in questo caso parla di allenatore, non di veline, proviamo a sentire se si riferisce, se è proprio incentrato su questa frase. Per quanto mi riguarda, io ripercorrerei la strada verso un allenatore nuovo, come fu al tempo di Sacchi e come fu successivamente al tempo di Capello. Beh, era ripercorrerei, quindi era al condizionale. Aveva già detto allora in precedenza che probabilmente, come si è letto poi sui giornali, che in ogni caso con Ancelotti si parlerà a fine stagione. Però insomma, diciamo che non c'è stata, per quello che possono valere questi discorsi formali, non c'è stata una conferma, no? una reiterazione, una ripetizione di conferma, ma c'è stato questo: ne parleremo a fine stagione. Io credo che queste siano le cinque ultime partite di Ancelotti sulla panchina del Milan, e credo per una separazione consensuale, non credo unilaterale. Dopodiché le strade sono due: o dicevo all'ascoltatore milanese, o quella della tradizione recente del Milan, che vuole comunque qualcuno di famiglia, no, su quella panchina. E allora in questo caso credo che si possa parlare di Rijkaard, si possa parlare magari di Leonardo come soluzione nuova, anche se è stata decisamente smentita in più occasioni. Oppure si va su qualcosa di, come dire, di fresco, no? E allora effettivamente credo che tutti e due questi tecnici che lei ha citato abbiano le carte in regola per aprire un nuovo ciclo. Per provare ad aprire un nuovo ciclo. Sono giovani, brillanti, coraggiosi, sono persone anche molto educate da un punto di vista sportivo, sia Ballardini che Allegri. Certo c'è un'incognita, altro è gestire, con tutto rispetto, perché sono fior di giocatori, Cossu, Biondini e Jeddah, e altro è gestire Kakà, Inzaghi e Beckham, Seedorf e finché ce n'è. Ma questo è un problema che vale sempre per qualsiasi bravo giovane allenatore sia chiamato a fare il salto di qualità. Diego ricorda che domenica sera c'è il derby della Lanterna, ma certo lo sappiamo bene. Speriamo che il derby della Lanterna si faccia riconoscere per la qualità del gioco e per quello che succederà in campo e non fuori, perché è già successo, no? In passati anche recenti. Mi sembra che ci sia un'attesa fin troppo carica per questo derby, che in tempi anche recenti non ha dato grande spettacolo di sé da un punto di vista di educazione sportiva, fuori dal campo, non sempre nemmeno dentro. Nino da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io volevo tornare sulle parole di Rijkaard del calcio sostenibile. Sì. Dunque, io posso fare un discorso. Nel mercato sono stati spesi quasi oltre i 70 milioni di euro per l'acquisto di vari Andrade, Albiron, poi Santiago, che diciamo che è quasi un fallimento. Se poi guardiamo Andrade, poi è una cosa ridicola. Io dico, allora, perché non colpire sempre l'allenatore in questo caso? Io dico che qua c'entra molto anche lo staff tecnico, da Branca, Secco. Lo staff dirigenziale intende, certo. Sì, però insomma, io dicevo che era uno slogan felice quello del calcio sostenibile, perché evoca... perché intanto evoca un aggettivo che è di moda, ma è di moda in senso positivo per il mio, e poi perché insomma, il significato di calcio sostenibile è calcio compatibile con i bilanci. Questo è il, questa è la chiave di lettura. Poi compatibile con i risultati è un altro discorso. Lei sta facendo un discorso di risultati e ha tutto il diritto di farlo. Non sempre, anzi raramente, le due cose coincidono. Il Questore di Genova sicura che sarà una festa di sport per tutta la città. È appena uscita questa dichiarazione del Questore, non abbiamo sentori di problemi particolari, non, anche episodi che sono accaduti recentemente non sono proiettabili su questo derby. Saranno 390 gli steward impegnati a Marassi. Da inizio anno, ha detto ancora il Questore, ho disposto 3 DASPO prevedendo il periodo massimo di interdizione delle manifestazioni sportive, cioè 5 anni, con l'obbligo di firma, proprio perché erano stati oltraggiati degli steward. Ancora un ascoltatore prima dell'intervallo. Vincenzo Napoli, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, volevo fare un intervento in merito alla partita Chelsea-Barcellona. Io sono abbonato a Mediaset Premium, così, però sinceramente mi sono un po' stancato di ascoltare i commenti di Pistocchi in merito a bel calcio e al cattivo calcio. Si fa sempre riferimento a bel calcio di Sacchi, però a mio avviso bisognerebbe anche considerare la qualità dei giocatori. Perché condannare l'allenatore del Chelsea perché si è chiuso in difesa a catenaccio? Magari io potrei anche valutare la partita in andata e ritorno e pensare che se Chelsea avesse giocato più all'attacco con quel trio, lasciamo stare che non abbiano giocato molto bene, però magari avrebbe preso 3 gol invece di, certo, di uno. Quindi a mio avviso non esiste il bel calcio e il cattivo calcio. Sacchi poteva fare quel tipo di gioco perché aveva Van Basten, Rijkaard, no, soprattutto perché aveva Baresi, Tassotti, Maldini e Costa Curta o Galli, soprattutto era per questo che poteva permettersi quel gran calcio. Comunque è ovvio, cioè, la difficoltà assoluta è quella di sapere di riuscire a coniugare l'estetica con la pratica, ma come in tutte le cose, nel calcio in particolare. Pensi che a Lecco, scrive Sergio, hanno avuto l'idea geniale di cacciare dal Lecco prima Doradoni e poi Allegri, ritenuti allenatori non all'altezza. Ma non sarebbe meglio cambiare più spesso i dirigenti rispetto agli allenatori? Beh, Sergio, direi che nel caso di Lecco è poco, ma è sicuro, sulla base di quello che ci ricorda lei. Ripasso di storia affidato anche oggi, 30 aprile, come sempre, a Nicola Filippone. Sembra ieri. 30 aprile 1989. L'Inter di Trapattoni, che sta procedendo a vele spiegate verso lo scudetto, viene fermata sullo 0-0 dal Milan di Sacchi. Ma la stracittadina finisce tra le polemiche dopo che al quinto minuto una conclusione dalla distanza del centrocampista rossonero Ancelotti si era stampata sulla traversa e aveva toccato terra dando l'impressione di avere varcato la linea di porta. Ma l'arbitro Magni aveva deciso di lasciar correre. Non è la prima volta che il dopo derby è contrassegnato dalle recriminazioni per un gol fantasma. Il 22 ottobre del 67 il direttore di gara D'Agostini convalidò una rete di Rivera considerando avvenuto oltre la linea il tentativo di salvataggio di Burnic. Da quell'episodio era nata la moviola televisiva. Tutto vero e tutto in sintonia appunto con le punzecchiature preventive di questi giorni. Perché si chiama derby della lanterna? Domanda un ascoltatore a proposito di Genoa-Sampdoria, perché la lanterna è il simbolo della città di Genova, come si chiama derby della Madonnina quello di Milano, come si chiama derby della Mole, anzi derby della Mole quello di Torino. È un problema di cioè un problema, è una scelta di identificare così e di legare la stracittadina al simbolo della città. Non capita tutti i giorni di mandare in onda un servizio realizzato da un grande atleta come Andrea Zorzi. Succede adesso, Zorzi ha, in occasione della maratona di Gerusalemme, su cui si è misurato, ha incontrato tra i partecipanti alla maratona stessa Demetrio Albertini, e da qui è nata questa conversazione che adesso ascoltiamo. Ci sono situazioni molto distanti tra Betlemme e Gerusalemme, come si riesce a metterle insieme? Ma come si riesce? È normale che sono situazioni politiche, noi siamo qui a dare un messaggio sportivo, che è quello che lo sport unisce. Noi abbiamo vissuto da europei il muro di Berlino, e pensare di ripassare in un altro muro oggi ha dato un'impressione un po' strana. È normale che la speranza deve arrivare dai giovani, e penso che lo sport possa fare tanto per questo. Per te è un ritorno dopo molti anni, come hai trovato questa terra? Ho trovato una terra da vivere. Per mia sfortuna in questi due giorni sono toccate fuga, solo per cercare di dare questo messaggio. La conosco perché mio fratello è molto legato a questa terra, e come detto tu la conosci meglio di me, è una terra che va vissuta per tutto l'aspetto spirituale e organizzativo che gira intorno a questa terra. L'ho trovata affascinante come sempre. Senti, tu ormai sei in campo politico, e quindi magari l'esperienza di vedere gente così a contatto che deve trovare fragili equilibri può essere interessante anche per il tuo lavoro. Sì, quello sì, perché alla fine l'equilibrio è la cosa più importante, portando avanti però proprio le proprie idee, questa è la cosa più importante, penso, perché sennò uno non scenderebbe in campo, no? Come si dice, proprio usando un gergo sportivo. Penso che assolutamente l'equilibrio qui ci debba essere, però si debba perseverare nella possibilità di poter trovare un'unione di intenti anche tra le due città. Ricordo che Demetrio Albertini è vicepresidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Scrive Ciro: riferendomi al contrasto di ieri sera tra Tevez e Almunia, attaccante del Manchester e portiere dell'Arsenal, secondo lei un portiere italiano quanto sarebbe rimasto a terra? E i compagni di questi cosa avrebbero fatto a Tevez? È meglio non pensarci, Ciro. In effetti è stata un'entrata bruttissima quella di Tevez su Almunia, che non solo non ha rallentato la corsa, ma anzi l'ha rilanciata negli ultimi due appoggi. È andato col piede teso sul petto del portiere, quando una volta il portiere lo si saltava cavallerescamente, così si diceva, e Almunia è stato colpito. Poi per fortuna nessuno dei due si è fatto male, e quindi loro due si sono fatti una ragione abbastanza subito. L'arbitro è stato bravo ad ammonire Tevez, che era la sanzione minima da rifilargli per la bruttezza, per la pericolosità di quell'entrata, ma i più bravi sono stati indubbiamente i loro compagni, che non hanno letteralmente fatto una piega. In Italia scoppiava una rissa da Angiporto, su questo non ho nessun dubbio. Davide da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, condivido la sportività del calcio inglese rispetto a quello italiano. Abbassi la radio per cortesia, Davide. Abbassiamo la radio, sì. Sono in viaggio, pardon. Prego. Alla luce degli interventi fatti prima con i nomi di Allegri e di Ballardini, le sorti di Gasperini, un allenatore col Genoa sta lottando per la Coppa dei Campioni e non mi sembra esclusivamente merito di Milito in attacco. No, certo, ma infatti degli allenatori destinati a far carriera, non c'è dubbio. Poi non so se subito o dopo, non credo ci sia una particolare fretta, anche se è vero che Gasperini è un po' meno giovane, perlomeno rispetto ad Allegri. E insomma, staremo a vedere, ma non è che qua facciamo ufficio collocamento, intendiamoci, è che prima un ascoltatore suggeriva o comunque si domandava a voce alta se questa potrebbe essere una strada percorribile da una società come Milan. Io ho risposto che sì, anche da un punto di vista tecnico senz'altro, da un punto di vista caratteriale personale sì, e poi c'è la gestione del campione, che è un'esperienza con cui non ti misuri né a Palermo né a Cagliari. La gestione del campione ti misuri negli squadroni metropolitani, e quello è sempre comunque un piccolo punto, e forse non così piccolo, punto interrogativo. Dunque sarà Tagliavento l'arbitro di Inter-Lazio, notizia appena battuta dalle agenzie, quindi l'anticipo di sabato sera Inter-Lazio Sarà sì, diretta a Tagliavento. C'è un errore all'agenzia, dice alle 15, a me risulta alle 20.30. Alle 20.30 è certamente l'indomani, cioè domenica, il derby Genoa-Sampdoria. L'arbitro designato è Morganti. Per Catania-Milan è stato designato De Marco e per Juventus-Lecce Gava. Juventus-Lecce che al momento è ancora a porte chiuse, ma verrà discusso stasera alle 18.30 il ricorso della Juventus all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI. Proprio stamane l'Alta Corte ha giudicato ammissibile questo ricorso ed è stato fissato il dibattimento immediato alle 18.30 a Roma. Ci sono gli avvocati della Juve che in volo attualmente verso la capitale, mentre la Federcalcio si è costituita in opposizione. Leggo dall'ultima agenzia. Ancora un intervento. Franco da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Dica. In linea, mi sente? Certo, forte e chiaro. Buongiorno a lei. Senta, mi faceva piacere fare un piccolo intervento nella linea buonista degli ultimi interventi che si sono sentiti e faccio una considerazione rispetto a tutti i giornali, le notizie che danno l'allenatore Ranieri, l'allenatore della Juventus, pronto per essere lasciato a casa. Tutto sommato mi sembra un paradosso essere in un mondo non è né contro i valori dello sport pensare che chi arriva terzo è per forza di cose sconfitto. In quale altro campo professionale chi arriva terzo in Italia è un fallito da sostituire e non può essere invece un onore a chi è riuscito a costruire magari con una squadra non sempre all'altezza un buon risultato? Oppure risolvere semplicemente pagando un sacco di soldi per dei campioni che vengono fuori. La squadra è sicuramente più forte, ma mi sembra tutto così commerciale, così poco sportivo come sentimento. Sì, che sono completamente d'accordo con lei e non mi sembra però nemmeno così tanto inedito quello che lei osserva e rileva, giustissimo per carità, ma ripeto, leggermente già visto, no? Alle nostre latitudini. Tempo scaduto, grazie a Filippo Auregi in regia, Flavio Suardi in redazione, Giornale Radio.